Versetto 26, con la frase il sesto mese dal tempo che Elisabetta aveva concepito. Cioè, Gabriele, soprannominato l'angelo dell'incarnazione perché annunzia a Maria Santissima la nascita di Gesù, a Zaccaria la nascita del precursore e a Daniele spiegò il tempo in cui avrebbe avuto luogo la redenzione di Israele. Galilea è la provincia più a nord della Palestina, propriamente detta, e comprendeva i territori delle antiche tribù di Zabulon, di Neftali e di Asser. Versetto 27. Dalla frase a una vergine sposa. Gesù volle nascere da una vergine per mostrare il suo amore alla virtù della purità, ma volle che Maria fosse sposata a fine di non essere assieme con lei esposta all'infamia. E a fine di avere in Giuseppe un tutore e un nutricatore. La maggior parte dei commentatori moderni pensano che al momento dell'Annunciazione Maria Santissima fosse solamente fidanzata a Giuseppe. A noi però sembra più probabile l'opinione degli antichi che ritengono che Maria fosse già legata in matrimonio, poiché San Giuseppe, Matteo 1,19, viene già esplicitamente chiamato marito di lei. La frase dalla casa di Davide. Queste parole grammaticalmente possono riferirsi sia a Giuseppe che a Maria e non si può determinare a qual dei due si debbano applicare. È certo però che sia Giuseppe, Luca 2,4 che Maria, Romani 1,3, discendono entrambi da Davide. Maria, sul nome di Maria, secondo l'uso del tempo, al momento delle nozze, la sposa non doveva aver meno di 12 anni e lo sposo non meno di 18. Versetto 28. Entrato, eccetera. Maria stava ritirata nell'interno della casa, assorta in contemplazione. L'angelo le apparve probabilmente in forma umana, poiché entra, parla, eccetera. L'angelo la saluta, Dio ti salvi, pace a te, piena di grazia, cioè ricolma di grazia e di favori divini, prima ancora di essere madre di Dio. Maria era già stata innalzata a un grado così eminente di santità da poter essere chiamata per eccellenza piena di grazia. Commentando queste parole, i padri esaltano la santità di Maria Santissima come superiore a quella di tutte le creature. E la Chiesa ha definito che la Vergine piena di grazia non fu tocca dalla colpa d'origine. Gabriele le dice: Il Signore è con teco. Queste parole non sono un augurio, ma una constatazione. Il Signore abita nel cuore di Maria Santissima in modo più perfetto che in ogni altra creatura e la ricolma dei suoi favori. E ancora, benedetta tu, eccetera. Superlativo ebraico che equivale benedetta tu a Dio più di tutte le altre donne. Maria è ancora la benedetta da tutte le umane generazioni, che fanno a gara nel celebrare la sua gloria di madre di Dio. Queste ultime parole, benedetta, mancano nei codici antichi in parecchie versioni. Si trovano però nei codici nella versione latina, siriaca, etiopica. E in molti padri, alcuni critici le ritengono come una glossa dei capitoli trattati al versetto 42. Le ragioni adottate non sono però convincenti. Versetto 29. Avendo udite, eccetera, eccetera, Maria nella sua umiltà si turba profondamente, non per la visita dell'angelo, ma per l'elogio straordinario che aveva udito di se stessa sotto forma di sermone e pensava quale fosse il senso delle parole dell'angelo. Versetto 30. Hai trovata grazia, espressione ebraica che significa sei oggetto di una speciale predilezione di Dio. L'angelo conforta Maria assicurandola del divino favore. Versetto 31. Ecco, concepirai, eccetera. Le parole dell'angelo rievocano la profezia con cui Isaia, 7,14, annunziava la nascita dell'Emanuele da una vergine. Teo 1,21. Versetto 32. Sarà grande, grande assolutamente, e non solo grande davanti a Dio, come Giovanni, versetto 15, sarà chiamato, vale a dire sarai non solo figlio dell'Altissimo, consostanziale al Padre, ma verrà riconosciuto come tale da tutti. Si noti che quello stesso Gesù, chiamato sopra figlio della Vergine, viene ora chiamato figlio di Dio, con che si dimostra la doppia natura, è l'unica persona di Gesù Cristo. Il Signore Dio gli darà, eccetera, Gesù è l'erede di Davide, secondo che avevano predetto i profeti del Messia. non è erede nel senso che debba avere un regalo temporale come Davide ed abbia a regnare solo sopra il popolo di Israele, ma è tale perché Davide e il suo regno erano figura del Messia Gesù e del suo regno. La casa di Giacobbe, sopra la quale regnerà il Messia, non è solo la discendenza carnale di Giacobbe, ma è tutta la Chiesa composta di ebrei e di gentili riuniti assieme dalla stessa fede nel Salvatore Gesù Cristo. Regnerà in eterno, il regno di Gesù Cristo durerà per sempre, a differenza dei regni terreni che hanno vita per breve tempo. Come si vede nelle mille parole dell'angelo, si ha un riassunto di tutte le profezie riguardanti il Messia. Versetto 34. In quel modo, eccetera. Maria non dubita delle parole dell'angelo, non domanda come Zaccaria un segno, ma piena di ammirazione e di stupore per un annuncio così straordinario, chiede umilmente come potranno effettuarsi tali promesse. Non conosco uomo. È questa un'espressione biblica che significa non uso del matrimonio. In queste parole di Maria Santissima viene chiaramente indicato il voto di perpetua verginità da lei fatto e il proposito di mantenerlo nonostante il matrimonio. Se essa infatti avesse voluto essere del matrimonio, non le avrebbe recato alcuna meraviglia, né le sarebbe apparso difficile l'annunzio di un figlio. Versetto 35. La frase, lo Spirito Santo, eccetera. Le virtù dell'Altissimo sono due espressioni che significano la stessa cosa. Ti adombrerà. Questa metafora è tolta dall'Antico Testamento, nel quale Dio si manifesta spesso sotto forma di una nube che ricopriva l'arca dell'alleanza, Esodo 11, 31 e successivi. Lo Spirito Santo, adunque, coprirà Maria con la sua ombra. E opera di lui sarà la concezione immacolata e divina del Cristo, e per questo, cioè a motivo di questa discesa dello Spirito Santo sopra di te, quello che nascerà da te sarà santo, letteralmente. La cosa santa che nascerà da te sarà realmente figlio di Dio, e come tale verrà riconosciuto e sarà chiamato. La parola santo con cui viene per antonomasia chiamato Gesù mostra la sua incomparabile santità, benché le opere siano comuni a tutte e tre le persone divine. Tuttavia le opere di amore si attribuiscono per appropriazione allo Spirito Santo, che è l'amore sostanziale del Padre e del Figlio. Per questo la concezione soprannaturale di Gesù viene dall'angelo attribuita in modo speciale allo Spirito Santo. Versetto 36. Ed ecco Elisabetta, eccetera, eccetera. L'angelo premia la fede di Maria, dandole un segno al quale potrà riconoscere come Dio possa mantenere la sua promessa. Egli, che ha reso fecondo il seno di una sterile, potrà pure renderlo fecondo il suo, per parentela tra Maria e Elisabetta. Siccome però i sacerdoti e i leviti potevano sposarsi con donne di qualsiasi altra tribù, è facile comprendere come Maria Santissima, benché della stirpe di Davide, potesse avere vincoli di sangue con Elisabetta, che discendeva da Aaron. Alcuni antichi hanno pensato che le loro madri fossero due sorelle. Si diceva sterile. La sterilità di Elisabetta era così nota che essa veniva chiamata la sterile.